proclama a squarciagola, non risparmiarti. Alza la tua voce come una tromba ed annuncia al mio popolo i suoi difetti, alla casa di Giacobbe i loro peccati. Mi ricercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni il diritto del suo Dio. Mi chiedono dei giudizi giusti, desiderano la vicinanza di Dio. Perché digiuniamo e tu non lo vedi? Ci mortifichiamo e tu non lo sai? Ecco, nei giorni di digiuno voi curate gli affari ed opprimete tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra dispute ed alterchi ed iniqui colpi di pugno. Non sono i digiuni come quelli di oggi che fanno sentire in alto la vostra voce. È forse questo il digiuno che preferisco, il giorno in cui l'uomo si affligge? Piegare il capo come un giunco e distendersi sul letto di sacco e di cenere? Chiami questo forse digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che preferisco, spezzare le catene inique, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e rompere ogni giogo? Non forse questo, spezzare il pane all'affamato, introdurre in casa i poveri senza tetto, coprire colui che hai visto nudo, senza trascurare quelli della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua ferita sarà presto cicatrizzata. La tua giustizia marcerà dinanzi a te e la gloria del Signore ti seguirà. Allora, se chiami, il Signore ti risponderà. Se implori, Egli dirà, eccomi. Se rimuoverai di mezzo a te il giogo, il puntare il dito ed il parlare iniquo, se tu darai il tuo pane all'affamato, se sazierai l'anima oppressa, allora la tua luce sorgerà tra le tenebre e la tua oscurità sarà come meriggio. Il Signore ti farà sempre da guida, ti sazierà nei terreni aridi, renderà vigore alle tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente d'acqua, le cui acque non vengono meno. I tuoi riedificheranno le antiche rovine, tu ricostruirai le fondamenta delle epoche lontane. Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di rovine per abitarvi. Se tu di sabato tratterrai il tuo piede dal fare i tuoi affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e il giorno santo del Signore, venerabile, e lo onorerai astenendoti dai viaggi, dal trattare i tuoi affari e dal tenere discorsi, allora ti diletterai nel Signore, ed io ti farò passare per le alture del paese. Ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato.